Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente continueremo su quanto già affrontato anche ieri, ossia al di là della reazione dei mercati, che comunque ieri è stata netta, nettamente negativa. Oggi la borsa è leggermente positiva, più 0,16%, mentre Parigi perde lo 0,50%, Francoforte meno 0,20%. Torna Wall Street ieri chiusa, Memorial Day meno 0,20% e anche Londra adesso fa meno 0,18%, ma dicevo, al di là dei mercati oggi più tranquilli, torneremo sul tema, ossia cercando di capire perché ci sia tutta questa incertezza dopo l'ipotesi di annuncio, di un accordo di fatto tra i tre principali partiti sulla legge elettorale, e quindi l'ipotesi ben più interessante per i mercati, e cioè che si vada a elezioni tra settembre e ottobre. Tra l'altro ne parleremo anche per le simulazioni che ha pubblicato il Sole 24 Ore due giorni fa, di quanto, con il tipo di legge elettorale che si ipotizza, cosa potrebbe accadere sulla base delle ultime proiezioni, gli ultimi sondaggi in Parlamento, e che tipo di alleanze potrebbero garantire una maggioranza parlamentare. E poi cerchiamo anche di capire, sempre nella seconda ora, perché i mercati hanno reagito così male e quanto ha pesato le banche venete, Veneto Banca, Pop Vicenza, e quanto invece hanno pesato le incertezze di carattere elettorale. In apertura invece due casi di virtuosi di investimento, perché come sempre quando riusciamo portiamo anche casi positivi di chi investe in questo paese, di investimenti che funzionano. Torneremo anche sull'ILVA, sta un po' agitando le acque la notizia sull'ILVA degli eventi. C'è stato un incontro oggi tra il ministro Calenda e i sindacati. Il tema in realtà più che riguardare chi ha, se è veramente confermato, come hanno indicato i tre commissari, il gruppo ArcelorMittal e Marcegaglia, l'accordata come quella che si aggiudicherà l'ILVA, i sindacati hanno dichiarato come inaccettabile le ipotesi di 5-6.000 esuberi per l'ILVA al termine dell'incontro con appunto il ministro allo sviluppo economico Calenda. Parleremo anche invece della vicenda Vivendi, perché la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione del controllo di facto di Telecom Italia da parte di Vivendi, subordinata alla cessione delle quote detenute da Telecom Italia in Persidera, operazione di rete per i multiplex digitali, è al 70% di TIM e al 30% del gruppo GEDI, ex gruppo Espresso. Però anche di questo parleremo, visto che stavamo citando i mercati. Vi ricordo anche l'andamento dei titoli principali: Italgas più 4,80, Moncler più 2,5, ST Microelectronics più 2,30, Ferrari più 2,30, Leonardo più 2, Campari più 1,80, come Buzzi Unicem l'1,5 lo guadagna Terna. Fronte opposto: Mediaset meno 2,90, Banco BPM meno 2, Saipem meno 1,90, come Telecom l'1,5 lo perde Generali ed Exor. Banca Generali meno 0,80%, euro sempre stabile a quota 1,1 nei confronti del 1,11, scusatemi, nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le notizie in breve. Dunque, di nuovo un botta e risposta, insomma, Stati Uniti, Germania. Donald Trump ha rilanciato via Twitter le critiche a Berlino dopo quelle trapelate dopo il vertice NATO. Abbiamo un deficit commerciale enorme con la Germania, inoltre loro pagano molto meno di quanto dovrebbero la NATO, molto male per gli USA, questo cambierà. Invece, andando sull'Italia, giustamente mi chiedete dello spread. Lo spread, mentre la borsa è, ripeto, oggi tranquilla, lo spread è salito di altri 5 punti, 190 punti. Ieri c'era stata una corsa di 10 punti, c'era partito a 178 e aveva chiuso a 188. Questo è lo spread come differenza tra BTP e Bund. Poi se si va a vedere i collocamenti, ieri bot a 6 mesi collocati molto bene, nel senso che il rendimento è ulteriormente calato e resta ampiamente negativo il rendimento. Anche oggi il Tesoro ha collocato 3 miliardi di BTP a 5 anni, quindi scadenza al 2022, e il rendimento è in calo, c'è lo 0,88%, poca roba, ma 15 centesimi in meno rispetto all'asta precedente. Anche i 2 miliardi e 750 milioni del decennale hanno visto un rendimento in calo al 2,15%. E molte dichiarazioni oggi sul fronte delle elezioni, ma ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma. Segnalo che tra l'altro c'è anche l'incognito di cosa farà Mattarella, perché non si può nemmeno escludere che decida in ogni caso di portare la legislatura sino alla sua scadenza naturale a marzo del 2018, perché se il Parlamento venisse sciolto a fine luglio, le elezioni cadrebbero in ottobre, ossia in piena formulazione della legge di bilancio. E il ragionamento fatto dagli osservatori esteri, ma non solo, è: ma perché tutta questa fretta, nel senso che porta a casa la legge di bilancio e poi puoi andare a elezioni a gennaio e febbraio? Ovvio che il ragionamento politico, nessuno vuole attribuirsi e andare a elezioni dopo aver fatto una legge di bilancio che sarà dura, perché la flessibilità europea non ce ne daranno di più, perché ci sono le clausole di salvaguardia, perché abbiamo posticipato alcune operazioni, insomma una manovra che dovrà essere, stando a quello che abbiamo visto, ma poi ne parleremo, intorno ai 25 miliardi di euro. E chi vuole andare a elezioni dopo aver fatto una manovra da 25 miliardi? E quindi il cerino non lo vuole nessuno. Il problema è che da fuori la ritengono un atteggiamento poco responsabile, cioè dovresti far fare la manovra a un governo, a quella governo, insomma alla coalizione di partiti che si prenderà il governo del paese, avrà a quel punto un mese di tempo per fare la manovra finanziaria con tutto il tempo, cioè rischiamo di essere veramente a ridosso, tra l'altro con le elezioni in Germania in contemporanea, con le misure di Mario Draghi, che da quello che ha detto ieri insomma sono ancora necessarie, però la scadenza naturale era dicembre 2017, potrà magari portarle avanti febbraio, marzo, quindi tassi ancora molto bassi, quantitative easing. Ma insomma il conto alla rovescia è iniziato anche per la posizione di Draghi, perché non potrà continuare se veramente, come ha detto ieri, l'economia sta consolidando nell'area euro, non potrà continuare a acquistare titoli di Stato all'infinito e tenere i tassi bassi all'infinito. Dunque qualcuno mi scrive subito: sono anni che in Italia non ci fanno votare. Guardi che nessuno ha detto che non si deve votare, il tema è: bisogna votare a ottobre in piena manovra finanziaria o si può votare a gennaio o febbraio, una volta chiusa la finanziaria e portata la finanziaria a Bruxelles? Questo è il tema. Poi uno può dire: no, votiamo subito a settembre-ottobre perché 3 mesi sono importanti, però poi non si può lamentare se da fuori non si capisce come mai nessuno vuole prendersi la responsabilità della manovra finanziaria per il 2018. Tra l'altro il commissario degli affari economici europei Pierre Moscovici ha detto: le elezioni non sono mai un problema, è caratteristica della democrazia essere in un ciclo elettorale, siamo pronti a prendere tutte le decisioni per ogni tipo di situazione, continuiamo a lavorare con il governo italiano con fiducia e intelligenza. Gentiloni oggi ha detto che il governo intende mantenere i suoi impegni, guardiamo con attenzione la legge elettorale ma non da protagonisti, poi ha detto che l'Unione Europea deve prendere il futuro nelle sue mani. Però Padoan, il ministro Padoan, ha detto: sotto il ciclo elettorale in Italia ma anche negli altri paesi è molto difficile fare dei cambiamenti, voglio anche vedere, perché qualunque cosa tocchi perdi pezzi di elettorato sotto elezioni, è più facile fare riforme, cambiamenti e manovre dopo il voto elettorale. Di Maio invece dice: per quanto ci riguarda diciamo di andare a votare il prima possibile, le manovre correttive di bilancio le faremo noi con un governo 5 Stelle perché crediamo di poter arrivare al bilancio. Questo diciamo sarà poi il tema della seconda ora alla luce anche delle proiezioni elettorali. Invece, restando su notizie che riguardano in parte all'Italia, perché lo dico? Perché oggi Ryanair ha dato i dati sull'esercizio, utile netto in crescita del 6% a 1 miliardo 316 milioni di euro per Ryanair. Non è interessata comunque la compagnia ad acquistare l'Italia e si attende che l'ex compagnia bandiera sopravviverà probabilmente come operatore di lungo raggio. Del resto, ha detto il direttore finanziario di Ryanair, Neil Sorahan, esiste da 70 anni. Sui conti e gli utili brillanti, in crescita appunto l'utile netto è del 6%, di Ryanair si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Fanno pensare i numeri del bilancio Ryanair diffusi oggi, soprattutto se paragonati alla situazione di Alitalia, che sta giocando la partita più difficile della sua storia, cioè quella della sopravvivenza, e soprattutto se raffrontati al disastro informatico che ha non poco penalizzato in questi giorni British Airways. Ebbene, la compagnia low cost irlandese ha segnato un utile in rialzo del 6% a quota 1,31 miliardi e ricavi in crescita del 2% a quota 6,64 miliardi. Il rapporto tra utile e ricavi è di un sesto, performance che trova assai pochi emuli. Dato importante che il fattore di riempimento dei voli è attestato al 94%, con il record di 120 milioni di passeggeri trasportati, con buona pace di chi invece accampa lo spauracchio del terrorismo per giustificare il peggioramento dei conti. È evidente che la compagnia di Michael O'Leary è un esempio virtuoso di produttività, performance peraltro molto aiutata dal calo delle tariffe e anche dai generosi incentivi che i diversi scali offrono al vettore low cost per impiantare i propri voli. Il futuro tuttavia dovrà tener conto anche degli effetti della Brexit, perché d'ora in poi volare dalla Gran Bretagna in Europa non sarà più open sky, cioè in modo libero, ma sottoposto ad accordi commerciali da rinegoziare con i 27 paesi dell'Unione, e naturalmente tutto questo avrà un costo. Secondo Ryanair, i voli low cost tuttavia in Europa potrebbero arrivare a produrre una crescita del 10% nel 2018 e creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro se i paesi europei contribuissero incoraggiando i propri cittadini a trascorrere le vacanze nel vecchio continente. Naturalmente la compagnia chiede anche di togliere le tasse sui voli a corto raggio. Già, però quello delle tasse è un argomento spinoso, perché Ryanair di fatto le paga, e poche, in un paradiso fiscale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, 349-238-6666 per sms, whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo anche che siamo in diretta su Facebook, diretta video, chi fosse interessato. Allora, prima di arrivare ai temi di giornata, un po' di economia cosiddetta reale, perché oggi Intesa San Paolo, che già lo scorso anno aveva firmato un accordo con il Ministero delle Politiche Agricole per un plafond di 6 miliardi da destinare agli investimenti nel settore agricolo, oggi ha rilanciato, e in una conferenza stampa, tra l'altro assieme al Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha annunciato come la banca metterà a disposizione 8 miliardi fino al 2019, grazie ai buoni risultati economici del settore agricolo, valore aggiunto, occupazione. Tra l'altro è uno dei pochi settori in cui assumono i giovani, più 38% la presenza giovanile nel mondo agricolo. Hanno, tra virgolette, convinto Intesa San Paolo a rafforzare il budget, e l'ha ricordato proprio lo stesso Carlo Messina al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Per noi questo è un momento molto importante, perché questo intervento dimostra come quando la banca lavora insieme al governo e alle imprese è in grado di poter accelerare lo sviluppo dell'economia nel paese. Noi abbiamo erogato 2 miliardi e 200 milioni di euro in un anno a questo settore, ne erogheremo minimo altri 8 miliardi nel corso dei prossimi 3 anni, ma quello che è impressionante è l'impatto che ha avuto sull'occupazione giovanile questo tipo di intervento, più 38%. Credo che questa è la dimostrazione di come debbano essere fatte le cose in Italia, lavorando a sistema fra i diversi interlocutori finanziari, politici e imprenditoriali. E soddisfazione espressa anche dal Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, sempre al microfono il nostro Giorgio Stamatopoulos. Il primo protocollo che siglammo ha avuto grande successo, c'è stata una importante risposta da parte delle imprese agricole e agroalimentari, ci sono numeri impressionanti obiettivamente, perché quando si vede il dato dell'occupazione giovanile a più 36-38% in agricoltura fa impressione. Naturalmente piedi per terra, noi sappiamo che ancora tanto c'è da fare e il fatto che qui si sigli il secondo tempo di questo protocollo per lo sviluppo del credito in agricoltura per me è molto importante, perché vuol dire potenziare ancora di più questo intervento. Eredità dell'Expo? Beh sì, in parte sì, perché proprio con Expo, in particolare con Intesa, abbiamo ragionato, discusso e anche progettato questo intervento specifico per il settore agricolo agroalimentare. Radicato il più possibile nel territorio italiano vuol dire generare sviluppo, impresa, reddito, occupazione, e questo per me fa la differenza. Poi altre dichiarazioni invece di Messina, le ascolteremo dopo, durante i mercati finanziari, riguardano la situazione delle banche venete, degli NPL, delle sofferenze bancarie. Vedo che qualcuno mi scrive, lei fa parte del neoliberismo, la corrente di pensiero, politica economica che per vivere deve massacrare i popoli. Guardi, a parte che il neoliberismo definito così è la sua idea, ma non è che un giorno possa essere accusato di essere un keynesiano e il giorno dopo un neoliberista. Decidiamoci. Detto questo, si offenderebbe l'amico Oscar Giannino nel definire il neoliberismo una corrente di pensiero che per vivere deve massacrare i popoli. Ma ripeto, o una o l'altra, tutte e due non riesco a essere. Invece vorrei adesso stare, come dicevo, su temi di economia reale per commentare sia investimenti e andamenti anche positivi, ma sia anche un tema che ogni tanto non riusciamo a affrontare, ossia la formazione dei nostri, non solo giovani, la formazione di quelli che saranno futuri lavoratori. E lo facciamo perché è arrivata anche così, un grido d'allarme, se vogliamo dire, proprio sul tema della mancanza di profili, di professioni formate che servono alle imprese. Sì, ne parliamo perché ci ha incuriosito molto una dichiarazione dell'amministratore delegato di Philip Morris Italia, ossia sulla mancanza di figure professionali a sufficienza, formate in una regione come l'Emilia Romagna, in una provincia come quella di Bologna, in cui diciamo, uno immagina anche che vi sia una maggiore attenzione per le esigenze delle piccole e medie imprese e anche delle grandi imprese quanto a formazione, visto che spesso commentiamo i dati sicuramente ancora deludenti sull'occupazione, andamento di occupazione e disoccupazione. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento, anzi per essere nostro ospite di nuovo, Eugenio Sidoli, che è presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. Buonasera Sidoli. Buongiorno a lei. Lei venne l'ultima volta, se non ricordo male, 3 anni fa, una cosa del genere, per annunciare proprio l'investimento da 500 milioni di euro nello stabilimento di Bologna, che va a produrre, è andato a produrre, com'è che si chiama? IQOS? Si chiama IQOS? IQOS, quella specie di sigaretta elettronica, la spiego male, non è una sigaretta elettronica, è un altro... Un riscaldatore di tabacco. Un riscaldatore di tabacco con cui voi siete entrati, però questa è la cosa che più interessa al programma, nel settore delle cosiddette sigarette elettroniche. Sì, cioè, prodotti di nuova generazione. Diciamo. Di nuova generazione di chi... fortunatamente vuole smettere, non dovrei dirlo lei, ma insomma è chiaro che fumare fa male, smette di fumare le sigarette tradizionali e cerca di supplire, magari per poi arrivare a smettere del tutto, con derivati così... sostituto di buona qualità. Sostituto di buona qualità. Ce ne occupammo perché l'investimento appunto non solo era di 500 milioni, ma ha portato all'assunzione di 600 persone. Le dissi a suo tempo in quell'intervista in cui la presentai, insomma oggi intervistiamo il diavolo se non ricordo male, le dissi a suo tempo, beh rivediamoci per capire se questo investimento poi si sosterrà, coinvolgerà anche l'indotto del territorio. A chi già mi scrive dico che fumare fa male, A, ma è una scelta, B, e quindi vale anche per l'alcol, vale anche per tante altre cose, quindi a noi interessa all'interno della legalità, perché lo Stato ci ricava buona fetta del costo del pacchetto, ci interessa capire se poi gli investimenti vanno o non vanno a buon fine e che cosa portano sul territorio. Allora, intanto, come è andato questo investimento da 500 milioni? Quante persone avete effettivamente assunto e che ricaduta ha avuto sul territorio? No, guardi, l'investimento è andato molto bene Abbiamo incominciato a produrre nel febbraio dell'anno scorso. Abbiamo prodotto praticamente a ritmo continuo e con una domanda probabilmente superiore a quella che ci aspettavamo, tanto che abbiamo dovuto negoziare 3 turni e 7 giorni su 7 di lavoro all'interno della nostra manifattura per soddisfare una domanda che era veramente molto, sì, molto più solida di quanto non pensavamo. Oggi abbiamo circa 2 milioni di consumatori sul pianeta, una buona fetta dei quali sono giapponesi. Il nostro mercato di punta era uno dei 2 mercati insieme all'Italia che aveva fatto il lancio pilota. E quindi posso solo dirle che abbiamo assunto tutti, stiamo lavorando a pieno ritmo, la fabbrica ha investito abbondantemente 500 milioni, ne abbiamo investiti un po' di più, che avevamo promesso, e siamo molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo. L'indotto, cioè fate lavorare, perché quando uno parla di una multinazionale come Philip Morris immagina, che delle volte è anche successo, che sì, non dico sfrutti il territorio, ma faccia operazioni che poi lasciano poco sul territorio. L'indotto sulle imprese emiliane? L'indotto è, credo che sia uno degli asset di questo investimento, cioè uno dei punti di forza, perché la tecnologia della quale viviamo, che è la tecnologia di produzione di stick, di sigarette e di impacchettamento, in buona parte, per quanto riguarda la parte, diciamo, la parte primaria, è tutta tecnologia italiana, è tecnologia Comas di Treviso, che hanno fornito al nostro impianto la buona parte, se non la totalità della tecnologia. E la parte nella secondaria, che è quella dove facciamo la produzione della sigaretta e la produzione del pacchetto, è in buona parte tecnologia bolognese. E quindi una fetta molto significativa, vorrei dire 2/3 dell'investimento di cui abbiamo parlato, sono ricaduti a Bologna. Hanno alimentato non solo queste 2 imprese, ma tutte le loro filiere, e hanno alimentato tutta una serie di servizi che abbiamo acquisito all'interno della nostra organizzazione, tipo i servizi di tipo generale, le pulizie, la movimentazione interna, la sicurezza, che hanno dato almeno altre 400-500 persone di impiego indirette all'interno della nostra fabbrica nuova. Quindi stiamo parlando in totale di circa 1000 persone tra diretti e indiretti, che non è poco per le dimensioni di imprese italiane. Senta Sidoli, ma perché allora lei dice che ha difficoltà in un'area, ripeto, da sempre vocata alla media e piccola impresa come tutto l'Emilia, a trovare tecnici e persone preparate? Lo dico, l'ho detto, chiaramente lo confermo. Il tema non è un tema solo nostro, è un tema di tutta la filiera della nostra impresa, ed è un tema, direi, ampiamente dibattuto a Bologna tra gli imprenditori locali, i quali, come lei ben sa, sono tra i migliori imprenditori, soprattutto per quanto riguarda l'internazionalizzazione delle aziende, e quindi hanno business in crescita con acquisizioni fatte anche all'estero, che naturalmente stanno portando una quantità di lavoro nella zona dell'Emilia-Romagna che è molto superiore a quella che abbiamo avuto negli anni passati. E nel tempo il fuoco che l'Italia ha perso sulle professionalità tecniche è diventato un po' un costo, un debito. E io credo che il fuoco sulle professionalità tecniche per il rilancio della nostra economia e soprattutto per agganciare il progetto Industry 4.0, che io credo sia il futuro per l'Italia, per le competenze manifatturiere italiane, è un fondamentale. E quindi rimettere fuoco sulle scuole per... Ma chi dovrebbe farlo? Cioè, lo Stato? Cioè, lei parla delle scuole superiori più orientate alla formazione professionale? Non solo, parlo di queste scuole, parlo anche delle facoltà di ingegneria. E mi lei dice chi se ne dovrebbe occupare? Io credo che se ne dobbiamo occupare tutti. Cioè, se ne deve occupare la politica, se ne deve occupare il mondo dell'industria, se ne devono occupare le scuole. Cioè, il tema dell'Italia da rilanciare non è un tema di uno di questi operatori, è un tema di tutti. E se il tema è di tutti, dobbiamo centrare, mettere al centro un obiettivo, e dobbiamo lavorarci in modo serio tutti quanti sopra. La professionalità è una professionalità super domandata oggi. Per darle un esempio, su Bologna stimiamo che ci sia circa una domanda di 1000 persone all'anno oggi, quindi senza ulteriori investimenti. Le scuole producono circa 300, quindi c'è un 700 di gap che noi dobbiamo andare a prendere in giro per l'Italia, il che vuol dire sempre occupazione italiana, ma che la città non sta soddisfando. E io credo che questo non sia un tema solo dell'Emilia, probabilmente è un tema molto più allargato. Se lei va a intervistare un po' di imprenditori, credo che le scoprirà una realtà che è quasi paradossale, no? Domanda insoddisfatta in un paese che ha il 50% di disoccupazione giovanile. Sì, il motivo per cui ci avevo incuriosito la sua intervista e volentieri l'abbiamo riospitata a distanza di 3 anni. Mi dica ancora 2 cose. Il fatto che il progetto pilota di Philip Morris in Europa fosse proprio quello bolognese farà sì che anche futuri investimenti si concentrano lì o in altri paesi europei? Io credo che il nostro prodotto, con il successo che sta avendo, porterà l'azienda a consolidare il suo investimento su Bologna e a guardare alla riconversione di una parte delle fabbriche che producono sigarette e che un po' alla volta diventano obsolete quando noi riusciamo a sostituire i consumatori. I 2 milioni che già abbiamo costruito ci dicono che il potenziale per questo prodotto è gigante. Il prodotto sostituisce molto bene, quindi piace, il consumatore lo apprezza, e quindi cambiare da una sigaretta a IQOS con i suoi stick è un passaggio, lei diceva prima, verso lo smettere di fumare. Noi pensiamo che sia una sostituzione per chi vuole continuare. Vabbè, è chiaro che voi non volete che uno smetta. Io dico invece che l'obiettivo, perché non sto facendo, contrariamente a quello che qualcuno mi scrive, non stiamo facendo pubblicità a niente, a nessuno, stiamo parlando di imprese sul territorio, e la denuncia, anche se molto morbida, ma sempre una denuncia, era di del ministro delegato di Philip Morris, che ha difficoltà a trovare personale formato, e ha chiarito bene poco fa, non solo tecnici, quindi degli istituti, ma anche laurea in ingegneria. Sì, ripeto, noi troviamo personale, abbiamo trovato il personale per fare il lavoro che dovevamo fare, però guardando avanti e guardando al territorio, io credo che lo spazio per crescere è molto grande, e questo porta in causa il tema della professionalità. Tanto sapevo che sarebbe arrivata la domanda. Sidri, lei fuma? No, Non fumo. Tanto glielo chiedo ogni volta, ma questo perché mi lascia sempre così sorpreso. Grazie, e in bocca al lupo, soprattutto ai dipendenti, alle quasi 1000 persone tra i 600 occupati diretti e 400 dell'indotto, e sperando che poi resti l'Italia, non dico Bologna, ma resti l'Italia il paese su cui questo progetto viene più implementato e quindi più si investe. Grazie al presidente, al ministro delegato di Philip Morris Italia, Eugenio Sidoli. Grazie a lei. E però vedo che tra l'altro molti stanno scrivendo: in provincia di Cuneo non si trovano ingegneri meccanici. Da altre parti mi scrivono sempre vari imprenditori che hanno difficoltà a reperire operai e profili selezionati. Vorrei continuare sul tema per un altro investimento. Oggi abbiamo beccato due investimenti. Annunciato ieri, anzi ieri è stato inaugurato l'investimento stesso, il nuovo laboratorio tecnologico di Elica, provincia di Fabriano, 2000 metri quadri, anche qui per capire poi con chi è leader mondiale nel mercato delle cappe se ha difficoltà a trovare persone formate. Però dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Oh, nonostante alcune critiche, noi continuiamo a cercare di capire le difficoltà anche di reperire personale specializzato, formato, non solo dagli istituti, anche, diceva prima Eugenio Sidoli, dalle università. E quindi poi c'è qualcuno che mi scrive: ah, insomma, lei ha fatto una leccata. Guardi, tanto non si preoccupi, io sono passato alle sigarette elettroniche. Fumare fa male, l'abbiamo detto due volte, lo dico per la terza volta, ma dopodiché, visto che è legale, lo Stato ci ricava il 70% almeno di tasse da un pacchetto. Se l'amministratore delegato di Philip Morris Italia dice che ha avuto difficoltà a reperire le posizioni che cercava, e che nella provincia di Bologna, dove ha fatto un investimento da 500 milioni, loro calcolano che su 1000 richieste di quel tipo di professionalità solo 300 vengono soddisfatte, poi arriveranno da altre parti d'Italia, ma mi sembra notizia, no? Poi lei faccia quello che vuole. Invece mi scrive un ascoltatore: mio figlio ha 20 anni, ha frequentato una scuola tecnica, dopo la maturità ha ricevuto nell'arco di 9 mesi qualcosa come 20 telefonate perché le aziende cercano disperatamente ragazzi giovani che escono con buoni voti dalle scuole tecniche, lavora, un ottimo contratto e a ottobre inizia anche l'università. Lo so, dobbiamo sempre dire che tutto va male, che tutto è uno schifo, magari c'è anche la responsabilità delle volte dei genitori, dei figli, in aver fatto fare una scuola che proprio non serviva. Allora uno dice: vabbè, ci metterò più tempo a trovare lavoro. Comunque, è inutile mettersi le fette di prosciutto davanti agli occhi. C'è una difficoltà, un mismatching, come dicono gli anglosassoni, tra la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro, che è sicuramente difficile per la domanda di lavoro, e non a caso abbiamo i tassi di disoccupazione giovanile, non solo, che raccontiamo, ma è anche difficile in alcuni casi per quello che è trovare quello che si cerca, e quindi figure specializzate. Giro la domanda al presidente di Elica SPA, leader mondiale nel mercato delle cappe da cucina, Francesco Casoli, buonasera. Buonasera Barisoni, buonasera. Voi avete inaugurato ieri uno stabilimento da oltre 2000 metri quadri con un investimento di 5 milioni di euro. Avete usato gli iper e i superammortamenti del 4.0? No, abbiamo inaugurato un laboratorio. Un laboratorio? Un laboratorio di ricerca e sviluppo, e non abbiamo utilizzato i finanziamenti lì per ammortamento, siamo andati lisci con i soliti finanziamenti, quelli della tasca dell'imprenditore. Mm. Avete, perché volevo chiudere il tema sollevato da Sidoli prima, notate anche voi una difficoltà, voi operate a Fabriano, storico distretto delle cappe da cucina, distretto che ha avuto una pesante crisi dopo il 2007-2008, ma anche prima, lo raccontammo, c'era una concorrenza cinese molto forte, voi siete riusciti in parte a spostarvi nella fascia alta delle cappe da cucina. Avete difficoltà a trovare figure di operai e non solo, anche non solo i diplomati, ma anche laureati specializzati che vi interessano? Allora, guarda, il mercato del lavoro è molto cambiato. Purtroppo a Fabriano in questo momento trovare operai è relativamente facile, abbiamo un sacco di aziende in crisi e quindi c'è molta offerta di lavoro. Per quanto riguarda invece la manodopera specializzata e in modo particolare gli ingegneri, noi ne abbiamo parecchi in ricerca e sviluppo, li andiamo a cercare a Napoli, li andiamo a cercare in Campania, li andiamo a cercare in Calabria. Devo dire che quello che ho sentito prima è, non dico purtroppo, però è la realtà. Per noi medie aziende italiane trovare il talento giusto, quello che ti permette di continuare ad essere competitivo, non è facile. Non è facile perché oggi le competenze stanno cambiando di giorno in giorno, e quindi riuscire a trovare il ragazzo che c'ha la fame giusta, che c'ha l'idea giusta e che soprattutto ha avuto la capacità e l'intelligenza di fare le giuste esperienze, perché poi le esperienze che noi cerchiamo non sono, io ritorno a dire sempre la stessa cosa, ma l'importante di una persona è l'attitudine, quindi il carattere, quindi la voglia di aver voluto sperimentare anche cose tra virgolette umili, perché si impara anche dalle cose basiche, e sono queste quelle che noi aziende andiamo secondo me sempre di più a ricercare. Allora, scrivono alcuni ascoltatori, sì, però voi li pagate poco, cioè non riuscite a trovare i profili che cercate perché pagate poco l'ingegnere, via cascata anche il diplomato dell'istituto tecnico, cioè è un problema anche di quanto gli offrite. Ma noi paghiamo per esempio anche gli stagisti, che mi sembra sia una cosa abbastanza rara, li paghiamo poco, dipende, per portarli a Fabriano sicuramente non vengono gratis. Detto questo, secondo me in un'azienda sempre di più l'aspetto soldi è una parte del pagare, poi c'è anche tutto il resto, c'è anche l'ambiente di lavoro, c'è anche quello che gli dai come possibilità di crescita, c'è anche la possibilità che tu dai a un ragazzo di andare a lavorare in giro per il mondo, c'è la possibilità di crescere anche professionalmente. Oggi le aziende devono dare anche questo, e questo fa parte del pagare, o perlomeno è una parte del benefit che un ragazzo, un giovane deve pensare di avere al primo o al secondo impiego in un'azienda che c'ha voglia di crescere, che c'ha voglia di innovare. E voi con questo laboratorio aperto ieri da 5 milioni di euro, Elica Propulsion Laboratory, è un laboratorio aperto, adesso ci racconta cosa vuol dire, che mettete a disposizione anche a giovani ingegneri innovatori, cioè non è solo per i vostri ricercatori? Noi abbiamo capito che noi siamo market leader mondiali e siamo un po' in tutto il mondo, però noi quello di cui abbiamo bisogno sono veramente i nuovi semi sia come idee che come persone. Noi abbiamo capito che è la condivisione quella che ci farà vincere la partita del futuro, quindi abbiamo fatto un laboratorio che usiamo chiaramente per noi, perché noi abbiamo un laboratorio dove certifichiamo per tutto il nostro mondo, certifichiamo anche per tanti nostri diciamo colleghi, quindi ci sono altre aziende, ne cito una per esempio, Ariston Thermo, le caldaie a gas le testiamo nel nostro laboratorio e le certifichiamo per poterle vendere in giro per il mondo. In più la terza gamba di questo laboratorio è proprio l'Open Laboratory. Se c'è un giovane laureando, ma anche non laureando, che ha una bella idea, la vuole testare, vuole fare un prototipo, vuole confrontarsi, noi abbiamo un sacco di apparecchiature, abbiamo un sacco di strumentazioni e le può usare dando in cambio nulla. Noi non chiediamo niente in cambio, non chiediamo un brevetto, noi chiediamo condivisione. Chiaro, ci sono delle regole, perché poi non è che qualsiasi persona entra e si mette a usare i nostri, certo. abbiamo speso 5 milioni e ci teniamo. Detto questo, quello di cui noi abbiamo bisogno è la contaminazione. Noi vogliamo avere gente sveglia, in gamba, veloce, che parla con le nostre persone e scambia le idee. Se lo facciamo così, arriveranno quelli che hanno veramente fame, che sono tanti, e che sono gli indiani, che sono i cinesi, che sono i turchi, che queste cose già le fanno da tempo. Io un laboratorio di questo tipo, con questo approccio, l'ho visto non più tardi di 2 mesi fa a Istanbul, in Turchia. Paese complicato, complesso, ma con una mentalità di questo tipo. Quindi non spaventiamoci di queste cose, affrontiamole. Allora, no, devo dire... Devo rispondere a alcuni ascoltatori. Allora, per carità, ci sono sicuramente delle offerte, dei salari troppo bassi, anche se io sono d'accordo che quando uno è giovane l'importante è la prospettiva, non è solo il salario d'ingresso, ma anche quello che ti offre il gruppo in cui sei, e quindi la possibilità di aumentare il tuo curriculum. È vero, per carità, che c'è stata una pressione anche sui salari. Detto questo, attenzione, perché qualcuno mi scrive: ma poi gli ingegneri quando crescono li mandano via per ingegneri più giovani. Se un gruppo che deve competere sui mercati internazionali e con i concorrenti appunto asiatici piuttosto che turchi e quant'altro manda via un bravo ingegnere solo perché nel corso degli anni chiede più soldi e ne prende uno che vale meno perché gli costa meno, si sta suicidando da solo, lo dico tranquillamente, cioè quindi meglio abbandonare un'azienda così. Cioè, se un imprenditore fa un'operazione del genere con il tipo di concorrenza che c'è adesso fuori, fatta di idee e competenze, fa un'operazione suicida, per cui ci sarà sicuramente il caso e poi però magari fallisce l'imprenditore, perché questo non è il modo di investire. Grazie intanto a Francesco Casoli. E quanti giovani riuscite ad ospitare? 5 per volta, quindi a turnazione 5 ragazzi, ogni turnazione possono venire a sperimentare da noi, non a lavorare, a sperimentare. Beh, speriamo che venga utilizzato, che diventi anche appunto un centro di ricerca per tutto il distretto di Fabriano delle Cappe. Andiamo sul traffico, poi invece cambiamo radicalmente tema dall'economia reale alla finanza, la decisione di Bruxelles su Vivendi quanto a posizione di controllo de facto in Telecom Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque vedo alcuni scrivono: questo è il ricatto della del ricattare il lavoratore con la scusa della concorrenza estera. No, guardi, non è una scusa, poi uno può fare quello che vuole, cioè uno può anche rinunciare, ma è vero che c'è la concorrenza cinese, indiana, turca, e su questo gli imprenditori lo sanno. Io ho solo detto che un imprenditore che manda via un bravo ingegnere, si parlava di ingegneri, che ha fatto crescere, che ha formato, solo per non dargli, per non aumentargli la busta paga, e lo cambia tra virgolette con un ingegnere giovane perché costa meno, se questo era un valido collaboratore, un valido ingegnere, compie un suicidio l'imprenditore, nel senso che non è in questo modo che competi, non competi più solo sul costo del lavoro, è una balla. L'industria italiana, i dati che ha sull'export li ottiene grazie alla qualità dei prodotti, quindi alla qualità della ricerca, del know-how, della capacità a tutti i livelli, non li ottiene sul costo del lavoro. Non possiamo competere sul costo del lavoro, per cui attenzione a fare dei cortocircuiti, che poi ci sia una pressione sui salari con la disoccupazione a questi livelli, con la crisi che c'è stata e il cambio che è in corso, siamo tutti d'accordo, ma ci sono anche tantissimi luoghi comuni in quello che leggo. Comunque andiamo avanti. La borsa più 0,15% Milano, meno 0,50 Parigi, meno 0,24 Francoforte e meno 0,28 Londra. Vorrei far ascoltare, siccome il tema è sulla borsa, ieri soprattutto restano anche, oltre che le incertezze sulle elezioni politiche, anche le banche venete. Oggi sulle banche venete abbiamo alcune dichiarazioni, per carità non dirimenti, non definitive, in corso una trattativa, da quello che abbiamo capito molto serrata, tra il nostro Ministero dell'Economia e Bruxelles, però il presidente, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, sempre al microfono il nostro Giorgio Stamatopoulos, ha detto: occorre attivare l'intervento pubblico perché i privati hanno già perso molti soldi in Atlante era il fondo, Atlante 1, Atlante 2, finanziato interamente dalle banche, che è servito a ricapitalizzare provvisoriamente le due banche venete. Sentiamo Messina su questo e anche sul fatto che sulla cessione degli NPL, delle sofferenze bancarie, non si possa contare su benefici esterni. Su questo tema ho già parlato in modo molto chiaro e molto diretto. Io penso che i privati abbiano già perso molti soldi dentro Atlante. C'è un intervento pubblico già approvato e definito, credo che sia il caso che quello venga realizzato e attivato il prima possibile. Io sono partito 2 anni fa con la volontà di creare una struttura che lavorasse come un fondo di private equity all'interno di Intesa San Paolo, proprio perché ritengo che le banche non debbano contare su dei benefici che vengono dall'esterno, ma debbano rafforzare le strutture interne. Perché quello che è mancato fino adesso nel sistema bancario italiano è la volontà di riuscire a fare le cose per costruire delle macchine di recupero del credito. E se si aspetta troppo da controparti esterne istituzionali non si riescono a fare le cose, quindi noi abbiamo deciso di lavorare a prescindere, poi tutto quello che verrà in più per noi sarà una sopravvenienza, ma i risultati che abbiamo ottenuto, cioè ridurre di 7 miliardi e mezzo lo stock dei non performing loans in 18 mesi nasce dalla forza della banca e non dai provvedimenti governativi, poi se in più si aggiungeranno noi saremo ben contenti, ma noi puntiamo su di noi e non chiediamo niente a nessuno. Abbiamo già fissato e comunicato al mercato che noi entro la fine del 2019 torneremo agli stessi livelli che avevamo prima della crisi e lo faremo attraverso la forza del nostro recupero interno, della macchina di recupero che abbiamo costruito e che secondo me oggi è il miglior fondo di private equity che opera in Italia. Da qui poi partiamo anche per commentare la borsa, che però oggi si muove soprattutto su Mediaset e Telecom, e ne parleremo dopo le 18, dopo il GR24 delle 18. Mediaset meno 2,80%, Telecom meno 1,90%. Segnalo anche Banco BPM, qui torniamo sul tema delle banche, già toccato ieri, meno 2,30%, Generali meno 1,30%, Banca Generali meno 1%. Case New Holland meno 0,90%, Exor invece meno 2,20%, Intesa San Paolo per inciso ha perso lo 0,60%, bene Italgas più 5,30% e bene anche Moncler più 2,5%. Italgas domani presenta il piano al 2020, c'è attesa per indicazioni, dicevo Moncler più 2,50%, Ferrari pure, Leonardo più 2,20%, ST Microelectronics più 2,1%, come Buzzi Unicem Campari più 1,80%, migliore di nuovo il Gambero Rosso più 30%, Gruppo Green Power più 17%, Ecosantec più 16% e Safebag più 14,5%, il peggiore Juventus meno 5,60%, Lazio meno 5%, Gequity meno 4,80%. Adesso c'è il GR24, faccio notare che mi scrive un ascoltatore sul tema con cui abbiamo aperto. Qui a Bologna un bravo rettificatore / fresatore / tornitore può arrivare a 2000 euro netti al mese. E se qualcuno non è d'accordo mi scriva, se qualcuno è d'accordo mi scriva uguale al 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Luigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché avevo una marea di cose, la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati, guarda è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente, siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo convocati. Una squadra fortissimi. Thank you. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo della borsa, migliori, peggiori, l'andamento della giornata, ma soprattutto oggi tiene banco non tanto il tema elezioni o il tema banche venete, ma la decisione presa da Bruxelles, o meglio, Bruxelles ha fatto sapere, la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione con il controllo de facto di Telecom Italia da parte di Vivendi. Subordinandola però alla cessione di alcune quote detenute da Telecom Italia in Persidera, operatore di rete e quant'altro. Ricordo che il nostro invece antitrust e le nostre authority si erano espresse in modo sulla vicenda partecipazione di Vivendi in Telecom e partecipazione di Vivendi in Mediaset diversa. Vivendi ha il 24% di Telecom, è di fatto l'azionista di riferimento. Il Mediaset invece ha il 25,7%, Fininvest ha il 41,3%. I due titoli, come ricordavamo, sia Telecom che Mediaset sono calati. Mediaset del 2,80%, Telecom dell'1,90%. Antonello Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ecco, che cosa cambia, se cambia, per la partita che sta giocando Bolloré, quindi Vivendi in Italia, la decisione della Commissione Europea? Dunque, cambia che in sostanza adesso Vivendi ha la possibilità di esprimere un presidente in Telecom, perché non ha più non deve più aspettare la chiusura della procedura di Bruxelles, che aveva impedito di cambiare la governance. E dall'altro lato rende evidente che la sistemazione dell'incrocio Telecom Mediaset dovrà essere attuata su Mediaset, visto che in Telecom è stato riconosciuto che Vivendi ha il controllo di fatto. E quindi da un lato l'ipotesi che era circolata che non venisse riconfermato Recchi come presidente, arrivasse De Puyfontaine, secondo te si avvicina? Sì. C'è un consiglio giovedì e potrebbe esserci quel passaggio di consegne che si era già ventilato con De Puyfontaine che salirebbe alla presidenza e Recchi che resterebbe in consiglio come vicepresidente. Questa era l'ipotesi che se fosse arrivato l'ok di Bruxelles al momento del rinnovo del consiglio era già la più probabile il 4 maggio. Mentre per la vicenda, visto che cede più Mediaset di Telecom, il mercato si raffredda perché non vede, diciamo, un'ipotesi di guerra in corso? No, diciamo che è evidente che a questo punto Vivendi dovrà necessariamente ridimensionarsi in Mediaset, quindi se non va avanti, che avrebbe voluto dire un'opera, evidentemente per la speculazione di borsa non è una prospettiva allettante, però... a questo punto è un passaggio obbligato, anche perché Bruxelles non ha messo in discussione la decisione della GCOM, che ha detto che non poteva rimanere Vivendi con quote superiori al 10% sia in Telecom che in Mediaset. Quindi, diciamo, tra virgolette, una buona notizia per Mediaset, meno per chi vuole speculare sulla battaglia possibile su Mediaset tra tra Fininvest e Bolloré, e quindi di converso si muove anche il titolo Telecom Italia. Quindi tutto a questo punto arriverà poi formalmente con, come tu ricordavi, il prossimo consiglio, ma è chiaro ed è importante, quando tu hai ricordato, che Bruxelles non mette in discussione la decisione della GCOM, e quindi de facto dà ragione, la avalla, se ho ben capito, per quello che riguarda la necessità che Vivendi, la dico male, si decida o sta in Telecom, ma Bruxelles ha detto che ha approvato l'acquisizione del controllo de facto e a questo punto dovrà ridefinire la sua posizione in Mediaset. Grazie anche a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Nel frattempo registro molti messaggi sia 349-238-6666 come SMS che come WhatsApp sul tema di quanto vengono pagate alcune professionalità. 2000 euro netti a fresatori e tonitori sono pochissimi secondo alcuni. Altri sostengono invece, mi scrivono, che c'è difficoltà comunque a trovare operai specializzati e condividono quanto detto prima dai due imprenditori, quindi Casoli e Sidoli, rispettivamente Elica e Philip Morris. Io adesso però vado avanti con l'ultimo tema e mi riferisco ai segnali arrivati ieri dai mercati finanziari dopo che si è capito che l'accordo è fatto, e cioè l'intesa tra la Camera, tra PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia per la nuova legge elettorale con il sistema proporzionale e soglia di sbarramento al 5%, per questo viene chiamata la tedesca. Si faceva notare però che in Germania c'è anche la sfiducia costruttiva, cioè tu non puoi far cadere un esecutivo se non hai già una maggioranza pronta, cosa che invece non è prevista in questa legge, perlomeno non è previsto in questa intesa. Perché non c'è ancora la legge elettorale, questo potrebbe portare alle elezioni già tra settembre e ottobre. Anche oggi si è mosso lo spread a 190 punti, è arrivato, perché il ragionamento, l'abbiamo detto più volte, è insomma vai a elezioni in piena legge di bilancio, cioè quando devi preparare la manovra finanziaria, come si chiamava una volta, che quest'anno sarà bella pesante, da 25 miliardi, ipotizzata almeno da 25 miliardi. C'è però chi non esclude che il Presidente della Repubblica decida in ogni caso di portare la legislatura sino alla sua naturale scadenza. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento, da un lato Roberto Dalimonte, politologo, docente del sistema politico italiano all'Università Luiss di Roma, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera. E grazie anche a Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera anche a lei, Daveri. Buonasera. Ecco, professor Dalimonte, lei ha pubblicato due giorni fa, se non ricordo male, sul Sole 24 Ore una, diciamo, ipotesi di quella che sarebbe il Parlamento in base agli ultimi sondaggi. Ecco, ipotizzando delle alleanze, perché mi sembra l'unica cosa chiara, mi sembra che nessun partito o coalizione ce la può fare da sola, né il PD, né Forza Italia, né i 5 Stelle. Prego, professore. Beh, questo che l'affermazione che ha fatto è un'affermazione certa. In una situazione in cui veramente poche cose sono sicure, quello che lei ha detto è sicurissimo. Cioè, noi stiamo parlando di un sistema proporzionale. Quindi con un sistema proporzionale, per ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, uno deve avere praticamente la maggioranza assoluta dei voti, più o meno, poi dipenderà adesso dalle soglie. Ma in ogni caso non c'è assolutamente vero quello che ha detto. Nessuno avrà da solo la maggioranza assoluta dei seggi, quindi noi torniamo ad un'epoca in cui, come la prima repubblica, in cui le coalizioni di governo si faranno dopo il voto. Il problema sarà quale coalizione di governo. E questa porta alla domanda che ho sia per lei successiva che per Daveri: perché tanta fretta allora? Nel senso che se io fossi un investitore, un osservatore estero, e mi dicessero guardate che con questa legge non vi sarà una maggioranza certa, la maggioranza si farà dopo il voto, e lei ha anche ipotizzato quello che potrebbe essere una coalizione PD, Forza Italia e un'altra 5 Stelle Lega Nord, però è chiaro che da fuori dicono beh allora perché tanta fretta se non c'è neanche... se non si creerà maggiore certezza politica. Comunque vi arrivo dopo. Professor Dalimonte, nella sua, ricordiamo chi non ha letto Solo due giorni fa, nella sua ipotesi, stanti sondaggi alla mano, che margine avrebbe una coalizione PD Forza Italia e una 5 Stelle Lega? Bene, innanzitutto, come la tabella che ho pubblicato è molto indicativa, perché dipenderà dalla soglia. Se noi ancora non sappiamo quale sarà questo sistema elettorale, è un conto dire tedesco, ma sarà il tedesco vero con la soglia al 5, una soglia non aggirabile, la soglia sarà al 3, al 2,5, io ho fatto diversi scenari. Con la soglia al 5, oggi con la media delle intenzioni di voto, quindi la media dei sondaggi, non ho preso un solo sondaggio, ho preso una serie di sondaggi degli ultimi giorni, verrebbe fuori con la soglia 5 avremo 309 seggi, neanche fanno apposta, 309 seggi allo schieramento PD Forza Italia e 309 seggi a uno schieramento ipotetico Movimento 5 Stelle e Lega Nord, cioè una situazione di equilibrio che non credo ai mercati faccia molto piacere, perché il risultato del voto sarebbe, se non cambiano le intenzioni di voto, sarebbe una lotteria, potrebbero vincere anche Grillini. Poi un conto è che riescono a fare un governo insieme il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, ma questa è una magra consolazione, perché comunque se avessero una maggioranza assoluta dei seggi sarebbe una crisi sistemica dal mio punto di vista. Cioè, poi con altre soglie avremo altri risultati, ma per esempio con la soglia al 3 e gli stessi voti addirittura viene fuori dalle mie simulazioni una maggioranza di seggi a favore di tre partiti, in questo caso non due, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, che in questo caso entrerebbero in Parlamento, nel primo caso no, e Lega Nord. Quindi siamo in una situazione veramente incerta, difficile da decifrare e pericolosa dal mio punto di vista. Incerta, difficile da decifrare e pericolosa. Dopo il traffico, intanto cerchiamo di risistemare la qualità del professor Dalimonte. Vorrei chiedere a Francesco Daveri se ho capito bene allora io che i mercati dicono, ma perché, visto che c'è questo sostanziale equilibrio, Dalimonte con le proiezioni attuali, cioè su Sole 24 Ore, vede, e con uno sbarramento al 5%, immaginando che tutti siano d'accordo su questo, vede, il PD avrebbe 217 seggi, Forza Italia 92 e la somma appunto arriva a 309. Dall'altra parte avresti 5 Stelle con 212 seggi, la Lega con 97 e sempre 309. Ora è chiaro che probabilmente magari uno avrà 319 e l'altro avrà 299, ma sempre diciamo di soglie risicatissime si sta parlando. E la domanda appunto che arriva è, ma perché allora andare con ad elezioni durante la manovra finanziaria, se poi sai che c'è un altissimo rischio che non vi sia una maggioranza certa, che inizi tutta una fase di trattativa per creare una coalizione e che chiaramente questo poi vada a influire sulla stesura della legge di bilancio? La risposta di Francesco Daveri dopo il traffico. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Scrivono alcuni ascoltatori, ma perché dite che il 5 Stelle si allea con qualcuno? Il Movimento 5 Stelle non farà alleanze con nessuno, l'abbiamo chiarito molte volte, è uno dei punti fondamentali del Movimento. Beh, se questo ragionamento, neanche Forza Italia ha mai detto che si allerà col PD e il PD con Forza Italia, né la Lega Nord ha mai detto che si allerà col 5 Stelle. Punto è immaginare che tipo di alleanze possono arrivare, visto che nessuno, neanche lontanamente, stante le proiezioni, può pensare di governare da solo. Professor Daveri, è questo che non capiscono fuori, e quindi è anche dentro, cioè chi deve investire, il perché di tanta fretta con tanta incertezza sul risultato elettorale? Ma insomma, fuori di noi non capiscono tante cose, in effetti forse hanno anche rinunciato a capire i bizantinismi della politica italiana, però rimane il fatto che semmai quello che stupisce è che i mercati non sono andati tanto giù, ecco, cioè dato le notizie che sono uscite. Quindi probabilmente quello che mi immagino che faccia, il ragionamento che immagino facciano gli investitori, che comunque gli italiani in qualche modo s'aggiustano, e che là fuori c'è comunque l'ombrello di Mario Draghi almeno fino alla fine del 2017, e chissà, sarà estendibile anche al futuro, magari con un po' di difficoltà, però si troverà un modo di farlo, si discute di tapering piuttosto che, cioè, di partire con la riduzione degli acquisti e poi solo dopo di aumentare i tassi, quindi è uno scenario che va in là nel tempo, e quindi dopo tutto vuol dire che qualsiasi governo italiano potrà comunque contare su un accesso a un costo del credito che sarà basso ancora per un lungo periodo di tempo. Certo, se per caso ci fosse lo scenario da bomba atomica di una coalizione che vuole portare dritta l'Italia fuori dall'euro, allora probabilmente molte cose cambierebbero, però di fronte a uno scenario probabilmente di una maggioranza risicata, con una qualche forma di riedizione della grande coalizione di adesso, i mercati sono abbastanza tranquilli, e questo spiega perché dopo tutto non ci sono vendite massicce da tutte le parti. E da questo punto di vista, quindi, avere elezioni prima e elezioni dopo, insomma, non fa tanta differenza, perché tanto le manovre bisogna farle, cioè bisogna farne subito una adesso in autunno, ma poi non è che poi in aprile ci lascerebbero o maggio o giugno l'Europa ci lascerebbe tempo o molti più margini, perché comunque il rapporto debito PIL è sempre 133%. Sì, io adesso non voglio fare l'ingenuo volutamente, però non riesco a capire perché allora non si faccia la manovra a ottobre e poi fatta dal governo Gentiloni a questo punto, e poi si va ad elezioni a gennaio o a febbraio, a gennaio per carità, cioè, perché sennò la sensazione è che l'attuale maggioranza non vuole assumersi la responsabilità di una manovra che sarà comunque complicata. Professor Dalimonte, sono io che sono troppo così demi vierge, mezza vergine, come dicono i francesi? L'ha detto lei, cioè il PD, l'attuale maggioranza non si vuole caricare il peso in campagna elettorale di una manovra che sarà comunque pesante. Poi c'è un altro fattore, le elezioni siciliane, ci saranno a novembre e l'esito non si presenta favorevole al PD. E quindi sono queste le due ragioni, a mio avviso, per cui Matteo Renzi preferisce andare a votare prima e non dopo. Daveri, anche lei, cioè, insomma, di fatto la mia domanda è ingenua, perché la risposta è molto, molto scontata e ovvia? Ma sì, in effetti, visto anche dovendo vedere il lato roseo della cosa, meglio che le decisioni impopolari le prenda un governo che è stato appena più o meno confermato, anche se con un sistema proporzionale non si potrebbe veramente dire così, da delle elezioni che si sono appena svolte, anziché un governo che è stato che è una pallida immagine della rappresentanza degli elettori. Però scusatemi, io allora seguo il vostro ragionamento, ma allora molto meglio a questo punto, se tutto si fa in fretta, si riesce a fare la legge elettorale entro luglio, andare a elezioni a settembre. Dalimonte? Sì, scusi, ho perso la battuta. No, dico, seguendo il ragionamento che fate sia lei che Daveri, sì. E Daveri diceva adesso giustamente, ma a questo punto tanto vale che la vera manovra la faccia un governo eletto e non un governo in scadenza, allora è meglio andare a elezioni a settembre. Ma infatti ci sono ragioni pro e contro, a mio avviso. Per questo la scelta di Mattarella, per poi alla fine sarà presidente, credo, a dire l'ultima parola su questo, è una scelta difficile, perché ci sono ragioni pro e contro, e non è facile. I mercati, è molto, prenderanno i mercati, perché come la prenderanno i mercati? Cioè, i mercati si sentono più rassicuranti dal fatto che si approvi la legge di bilancio nei tempi regolari con il governo attuale, o si spaventano di fronte al fatto che ci sarà un governo che comunque uscente, che dovrà impostare in qualche misura la manovra, perché mettete conto che se si va a votare in autunno, io non credo che si possa votare a settembre, si voterà più probabilmente a metà ottobre, quindi ci vorrà 2 settimane poi per convocare le Camere, eleggere i presidenti delle 2 Camere, poi iniziano le consultazioni. Quando è che verrà fuori il governo? Verrà fuori a novembre inoltrato, e nel frattempo cosa faranno i mercati? Con l'esercizio provvisorio a quel punto diventa una necessità, e questo è il vero problema, perché poi se andiamo, ripeto, a fare l'elenco dei pro e dei contro, vediamo che ci sono pro e contro. Tenga conto, tra i pro, Renzi mette anche il fatto di votare a ridosso delle elezioni tedesche, che probabilmente saranno un successo per la Merkel, e quindi l'Italia, come dire, si accoderebbe, anche perché c'è un problema europeo, no? C'è il Berlino, Parigi, che inizieranno un processo di revisione anche dei trattati. Dice l'Italia comunque si accoderebbe a una stabilità che arriva anche dalla Germania. Esattamente, questa è una delle ragioni pro di cui parla Renzi, però ci sono anche quelle contro, quindi c'è tutto un pro e un contro. Daveri, in 30 secondi, in effetti l'esercizio provvisorio, per carità, non è il massimo della vita, però se fosse così non sarebbe neanche la prima volta. Ma sì, certo, soprattutto con la BCE che è ancora in essere il suo programma, cioè non sarebbe una cosa impensabile, anche se sicuramente non sarebbe la cosa migliore. La cosa migliore sarebbe che si votasse a questo punto il prima possibile, per cercare di arrivare a una legge di stabilità, che arrivi a una legge di stabilità vera e propria. Insomma, questo lo si può spiegare sia ai mercati che all'Europa. Allora, staremo a vedere intanto se passerà l'accordo sul 5%, perché ha ragione Dalimonte a dire aspettiamo un attimo, noi lo diamo per scontato, poi magari c'è qualche colpo d'ala, ah, è così la battuta, il gioco di parole è chiaro. Grazie a Roberto Dalimonte, grazie a Francesco Daveri, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia che torna domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di una buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, libera la voglia di fare.